Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Gianmarco Ferronato in regia. Dunque, le notizie sull'Europa, dall'Europa, oggi hanno come inevitabile capitale Atene. Infatti l'Europa di fatto riparte da Atene con un semestre all'insegna del risparmio, un semestre all'insegna delle elezioni europee. Ve lo ricordo, ve lo racconteremo nel corso dei prossimi 5 mesi. Le elezioni sono state fissate nei vari stati tra il 22 e il 25 maggio e intanto con il cambio della guardia, quello che viene fissato dai calendari europei, dunque un semestre a testa, questo tocca alla Grecia, al prossimo sarà l'Italia, ma dunque oggi appuntamento ad Atene. Atene operativamente al timone dell'Europa. La prima presidenza low cost e no frills della storia europea entra in scena nei giorni stessi in cui la troica internazionale si appresta a tornare a bussare alle porte del Ministero delle Finanze ellenico per verificare lo stato di avanzamento della cura di austerità. 50 milioni di budget e staff ridotto all'osso per i 14 vertici ministeriali e i 120 eventi legati al semestre. La speranza, confidano al Ministero degli Esteri, è riuscire persino a risparmiare qualcosa. Per cominciare, agli ospiti stranieri niente cravatte o foulards in omaggio. Si dovranno accontentare di penne e blocnotes ufficiali. Sul piano operativo, nei prossimi mesi, il premier Antonis Samaras conta di fare progressi significativi sulla questione immigrazione, obiettivo condiviso con l'Italia, con l'approvazione a giugno della nuova strategia comunitaria. Parallelamente, la Grecia punta anche all'approvazione di un piano marittimo europeo. L'occupazione e la crescita, considerata la situazione sociale emergenziale che si vive ad Atene, saranno altrettanto importanti, così come l'accordo definitivo sull'unione bancaria raggiunto con fatica all'ultimo Ecofin e destinato ora a un percorso tutto in salita nei negoziati con il Parlamento europeo, ragionamenti questi al netto della stabilità politica greca. Il governo di grande coalizione in carica vive sul filo del rasoio dei voti. Ancora una crisi e si va alle elezioni con l'atteso boom della sinistra radicale di Siriza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente queste elezioni che citava Sergio Nava sono quelle interne greche, un tema che si accavalla, destinato ad accavallarsi anche in Italia, in tutta Europa, con il grande tema appunto delle elezioni europee. Per quanto riguarda quelle dell'ottavo Parlamento comune, di quelle che ormai sono diventate le 28 nazioni europee, quali sono i temi e i timori che emergono? Sentiamolo nel servizio di Maria Luisa Pezzali. La crisi nell'eurozona, la disoccupazione, l'immigrazione, ma anche la sicurezza dei dati, la politica di difesa, la disomogeneità tra i paesi dell'Unione e la crescita dei partiti populisti. Sono alcuni dei temi che si affacciano all'orizzonte della campagna elettorale per il voto europeo che si terrà tra il 22 e il 25 maggio prossimi. Per Yannis Emmanoulidis, direttore di ricerca del Centro per la Politica Europea di Bruxelles, il timore che i partiti antieuropeisti raccolgano molti consensi è fondato, specialmente nei paesi più toccati dalla crisi. I think that there is a good likelihood that anti-parties and movements, so parties which are either anti-EU, anti-Euro. Penso, dice ai microfoni di Euronet Plus, che i partiti anti-Unione Europea, anti-Euro, anti-immigrazione, anti-establishment e anti-elite saranno in grado di attrarre molti voti. Ma la vera questione è: queste forze formeranno un blocco compatto oppure no? Per Solt Darvas, del think tank europeo Bruegel, le elezioni saranno una sorta di barometro dell'atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea nel suo complesso. Molte persone, ha detto sempre ad Euronet Plus, sono deluse e incolpano l'Unione delle difficoltà che stanno vivendo, e ciò è vero solo in parte. Infine, una previsione: nel prossimo Parlamento europeo il numero di parlamentari dei partiti più radicali aumenterà. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.